Benvenuto Ciro Masella. Con te per parlare, in quanto ti sentiamo in veste di regista e attore dello spettacolo Il Generale al Teatro Brancaccino a Roma l'8 e 9 marzo. Ciro, ce lo presenti? Assolutamente sì, e inizio dicendo, inizio dalla fine, 8 e 9 marzo alle ore 20, orario molto Sì. particolare, però il Brancaccino fa le 20 perché se no poi sentiremo le musiche dello spettacolo del Brancaccio, quindi c'è un orario particolare in cui poi si può andare tutti a mangiare la pizza, si può andare a cena. Il Generale è un testo scritto da Emanuele Aldrovandi, che è un giovane autore italiano, ma già tra i più affermati, tra i più rappresentati, premiati e tradotti e rappresentati all'estero, tra l'altro, che ha progetti con la Cina, insomma, con tutto il resto del mondo, quindi è una delle nostre glorie nazionali, insomma, uno di questi giovani talenti italiani che si stanno facendo conoscere anche all'estero. Ha scritto questo testo, il germe di questo testo l'ha scritto come saggio a scuola, alla scuola della Civica di Milano, insomma, la scuola di drammaturgia. E si era ispirato a Boris Vian, generali a merenda, insomma tutta una serie di cose, ma soprattutto lui racconta che il germe gli è venuto durante una manifestazione. Ha sentito Contessa di Petrangeli, ha ascoltato alcuni commenti insomma, di persone che erano con lui, che si auguravano la morte di quelli della fazione opposta. E allora gli è venuto questa specie di cortocircuito, ha detto: ma noi non dovremmo essere quelli dalla parte della ragione, non dovremmo essere quelli che stanno qui a manifestare per la pace, invece si augurano la morte. Allora, tutto questo frullio gli ha fatto concepire questo testo, il germe di questo testo molto bello, che poi, dopo qualche anno, non essendo mai stato rappresentato, mi ha fatto leggere e mi ha detto: guarda, io ho un conto in sospeso con questo lavoro, ti andrebbe di svilupparlo insieme? Io gli ho detto sì, lui lo ha aggiornato e lo ha intriso della nostra realtà attuale, contemporanea, quindi è entrato il tema del terrorismo, il tema insomma, delle missioni di pace delle grandi superpotenze civilizzate odierne, e è venuto fuori questo testo che ricorda per alcuni versi il Dottor Stranamore di Kubrick e ha la stessa. Diciamo lo stesso impianto, nonostante Emanuele non abbia mai visto il dottor Stranamore prima di scrivere il testo, perché quando io gliel'ho citato, insomma, io non l'ho visto il film, e invece ricorda molte cose perché c'è il personaggio di questo generale, di questo famosissimo generale premiato, amatissimo di questa superpotenza mondiale, che non viene mai citata, però si intuisce qual è. Che viene messo a capo di una missione di pace che questa superpotenza fa partire in seguito a un attacco terroristico. Questa missione di pace deve portare la civiltà in questo luogo non ben definito, luogo di selvaggi in mezzo al deserto. E tutto questo naturalmente è letto dalla lente del grottesco, del surreale, è uno spettacolo che, come il film di Kubrick, parlando di atomica, parlando di guerra fredda, invece poi viene svolto in maniera assurdamente ridicola, perché poi appunto l'uomo nelle sue impennate d'ego, nei suoi deliri, è ridicolo, quindi è tragicamente ridicolo. Inizia questa missione di pace, questo generale diciamo che fa delle cose un po' strane, lievemente strane, e il suo ego lo fa arrivare a concepire un piano assurdo, e con questo piano lui vuole essere restituito alla storia in un modo molto molto particolare. Non posso dire troppe cose perché non voglio Certo. scatenare, però vuole restituire alla storia non come un grandissimo guerriero, ma come qualcos'altro. Ok. E gli verranno dietro, insomma, una parte dell'esercito gli verrà dietro, una parte invece no, perché poi in scena con me ci sono Giulia Eugeni e Eugenio Nucciolini, lui è il mio tenente. E invece Giulia Eugeni è una soldatessa di queste che sono partite per questa missione di pace entusiaste. Noi ci siamo ispirati alle alcune soldatesse di Abu Ghraib, no, che erano state intervistate prima di partire per la guerra in Afghanistan, e poi appunto tutto quello che ha portato alle foto che conosciamo di Abu Ghraib. Erano partite entusiaste perché portavano la civiltà e poi le abbiamo riviste nelle foto con i prigionieri di Abu Ghraib. Quindi tutto questo è finito in questo testo di poco più di un'ora che attraversa la follia umana, la sete di potere, la voglia di sopraffazione che è in tutti gli uomini. uomini, ed è anche una riflessione molto divertente, molto lucida, ma tremenda anche sull'Occidente e sulla spocchia, sul senso di superiorità dell'Occidente, che arriva a fare un giro a 360 gradi e arriva ad affermare la propria superiorità, tra l'altro dicendo: io mi posso anche autoannientare per far vedere che sono più intelligente, più colto, più civile e meglio di voi. Questo in breve, insomma. Sì. Ciro, quali sono gli elementi che del testo ti sono piaciuti? Io mi sono innamorato subito di questo testo, innanzitutto perché sono tre personaggi meravigliosi. Quello del generale, che interpreto io, è assurdo. Cioè, siamo veramente al limite dell'assurdo, ma è un personaggio in cui sono contenute una serie di battute, una serie di sfaccettature di uomini di potere, ma non solo di potere famosi, quelli che vediamo in televisione o leggiamo sui giornali, ma di persone che io frequento, che ho visto, che ho conosciuto, con cui ho avuto a che fare. È folle il testo, perché poi noi l'abbiamo messo in scena prima che in America succedesse quello che è successo con le elezioni, prima che questo mondo ogni giorno che passa si svegliasse anche più folle, perché elegge democraticamente personaggi che tu dici: ma come si fa? Ma perché? E questo testo si interroga anche su questo: quanto l'essere umano è capace di gestire questa cosa meravigliosa che è la democrazia, quindi la libertà di eleggere chi lo deve governare, chi lo deve guidare. Quanto è lucido, è tremendo, perché nel senso va, si pone anche delle cose che sono dolorose da dire, comiche appunto, però io tutte le sere quando lo attraverso sento che dico alcune parole e quelle parole mi risuonano dentro, dico: ma io c'ho ragione, cioè ha ragione quando dice queste cose il generale, che sono assurde. E tu vedi negli spettatori che poi alla fine vengono a salutarci, dicono sempre: ma sai che a un certo punto ci trovavamo a fare sì sì sì con la testa, ci accorgevamo che facevamo sì sì sì a delle cose che comunque non sono politicamente corrette, cioè non sono proprio sai, politicamente corretto, bisogna dire sempre le cose giuste, buone, non spingersi, insomma si spinge a immaginare e ad analizzare l'essere umano, quindi non solo la sete di potere, il superpotente, la politica internazionale, che non è la cosa poi che interessa fondamentalmente a Emanuele, ma questo strano esseruculo, questo animaletto che dovrebbe essere pensante con una coscienza, che è abitato da dei demoni pazzeschi, che visti sotto una certa lente fanno morire da ridere, ma sono tremendi, perché manca, cioè, hai visto, noi abbiamo alcuni personaggi in questo momento che governano parti del mondo che sfiorano veramente ridicolo, cioè arrivano, cioè ci si ride sopra, però hanno in mano il potere, le valigette del potere, sono nelle stanze del potere. Bene, questo testo prende proprio questa visione tragicomica nell'uomo che riesce a mettersi in dei casini pazzeschi, in degli angoli pazzeschi come un topo, e quindi senza dare risposte si diverte a scendere nelle pieghe più intime di questo animale che è l'essere umano. Senti Ciro, c'è, per quanto riguarda le informazioni, una pagina Facebook, un sito internet dedicati o allo spettacolo o all'autore o comunque al vostro la vostra attività? C'è il sito di Emanuele Aldrovandi, okay. Su cui si trovano tutte le informazioni. Le informazioni dello spettacolo sono anche sul sito di Pupi e Fresed del Teatro di Rifredi, che è il nostro coproduttore, e poi ci sono una pagina dedicata all'evento, al Brancaccino su Facebook, insomma le informazioni ci sono, anche perché noi abbiamo già debuttato, ci sono recensioni, c'è tanto da vedere anche. Poi c'è una bellissima scenografia di Federico Biancalani, sì. Che è questa, è un'idea veramente geniale, perché lo spettacolo è ambientato in una sorta di strano futuro presente, senza arrivare a Star Trek, non abbiamo le orecchie da indiani, però siamo in uno stranissimo presente mischiato di passato, perché invece il generale ha nei suoi costumi una serie di citazioni dei più grandi o dittatori o uomini del potere della storia, insomma c'è anche, a un certo punto compare anche qualcosa di Napoleone, e questo è molto divertente, perché appunto invece siamo in uno strano limbo futurista, e lui si è inventato, lo scenografo, questa specie di fungo che è una scultura, perché è una sorta di albero della vita, fungo atomico, strana tenda metallica di questo accampamento in questo deserto, quindi anche dal punto di vista visivo, essendo un testo visionario, il nostro scenografo si è sfogato. Ci sono alcune foto, alcune immagini che restituiscono la bellezza di questa specie di scultura che è in scena. Benissimo. Ricordiamo allora l'appuntamento con Il Generale al Teatro Brancaccino a Roma l'8 e il 9 marzo. Un ringraziamento e un saluto a Ciro Masella che ne ha curato la regia e anche l'interpretazione, uno degli attori in scena. Ciro, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Viva il lupo, grazie a voi, buon lavoro e ci vediamo alle 20. Alle 20. No, o giovedì o venerdì. Un abbraccio grande. Ciao Ciro.